uzacağım. Bu batır ayrılığa doğururken ama tufalim bir zarenden beni vursa be. Kovam moruz yemem bile. Sani furile parole sui che ora ma non portai su tuo penale, ma non hai capito niente, non ti ressenti niente, che cattiva sei, che te sai svegliare a fare, tirati su quei pantaloni, ma che stupida che sei, incontrollabili i tuoi modi, sei un diavolo ma io, però mi spoglio con famore, le mie regole del cuore, non so chi sei di con noi. Solo tre minuti, giusto di invento le stelle, per correre a mezza si scala e tornare insieme a lui. Perché tu non le puoi fa male, non si merita sti cose, perché mi ammazzi per te. Ma come pensate che faccio questa pazzia, ti mammeno due parole per me pagare. Io potevo farci sesso, visto non la vivo ma pensava. Se cremando tutta si è agitata più che mai, ti voglio che fosse ma che sai che niente fava. Non ti serve né si scusa, voglio solo caffè e pace, a chi senso che non so stava. Incontrollabili i tuoi modi, sei un diavolo ma io, però mi spoglio con famore, le mie regole del cuore, non so chi sei di con noi. Ma tieni solo tre minuti, giusto di invento queste, per correre mezza si scala e tornare insieme a lui. Perché tu non le vuoi fa male, non si merita sti cose, perché mi ammazzi per te. Tieni solo tre minuti, giusto di invento queste, per correre mezza si scala.